Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Io ho un sogno. Sogno che questa nazione un giorno si alzi e viva davvero quello che proclama nel suo credo. Noi riteniamo ovvia questa verità, la verità che tutti gli uomini sono uguali. Inutile dire che le parole di Martin Luther King hanno letteralmente cambiato il mondo. Era il 28 agosto del 1963 e molti hanno creduto e credono tuttora che la rivincita della popolazione di colore sia partita proprio da lì, da quella piazza gremita di Washington DC. La realtà è che queste frasi così piene di veemenza e speranza non sono state altro che il giusto, naturale coronamento di un percorso più lungo, doloroso, ma anche glorioso, iniziato molti anni prima di allora. Il riscatto degli afroamericani era cominciato tempo addietro e lo aveva fatto naturalmente a suon di musica. Il 1865 per gli afroamericani è l'anno indimenticabile che segna l'abolizione della schiavitù. Dopo secoli di sfruttamento, finalmente uno spiraglio concreto di riscatto che non proceda soltanto nell'etere, seguendo il dipanarsi dei pensieri e delle dolci, tristi melodie del blues. La nascita del blues intorno al XIX secolo, infatti, altro non è stata che il modo, forse l'unico, certamente il più efficace, per consentire ai lavoratori neri di sopportare la dura, durissima condizione di schiavitù e sfruttamento nelle piantagioni. Il blues, figlio delle work songs e dei canti di origine africana così struggenti e pieni di nostalgia, prende il nome proprio dalla cosiddetta blue note, la nota caratteristica che rende inconfondibile questo genere musicale. Abbassata di circa un semitono e dunque suonata o cantata in maniera sempre leggermente calante, la blue note conferisce al blues il suo tipico aspetto malinconico, vagamente dolente, figlio della tristezza e del mancato riconoscimento dell'esistenza effettiva del popolo afroamericano, se non in condizione di forza lavoro. Una condizione, quella infima di chi ha la pelle scura e si spezza la schiena sui campi di cotone, che troverà il suo affrancamento proprio a partire da quelle stesse note musicali che avevano contribuito a renderla più sopportabile. Ho cercato per mezza città. Stiamo lavorando, signore. È tutto a posto, capo. Non parlarmi come se fossi un proprietario di piantagione. Allora che cazzo vuoi? Voglio farti fare un disco. Un disco? Sì, proprio così. È uno scherzo? No, signore capo. Fammi capire bene. Abbiamo fatto fuori metà del tuo locale e ora vuoi farci incidere un disco? Sì, esatto. Ho sentito belle cose sul tuo conto. E quando lo vuoi fare? Adesso, ho prenotato la sala. Allora, ci stai? Sì. Dai, la sala è prenotata. Questa conversazione, tratta dal film Cadillac Records, avviene tra l'ex contadino e futuro bluesman Muddy Waters e il produttore discografico Leonard Chess, fondatore della Chess Records di Chicago e dotato di un segno particolare non trascurabile. Chess ha la pelle bianca. Un uomo di colore e uno bianco si ritrovano incredibilmente uniti nell'America ancora razzista degli anni 50, convinti che la musica saprà vincere la sfida dell'emancipazione di un intero popolo. Well, I know what's the feeling now, child. Baby, I'm most ever had. Leonard Chess, il fondatore della Chess Records, che porterà alla ribalta artisti come Muddy Waters, Chuck Berry e Howlin' Wolf, è un uomo bianco e non è certo il primo ad aver scelto di dedicare la propria vita alla causa della popolazione di colore. Se gli afroamericani hanno ottenuto il loro agognato riscatto, infatti, lo devono anche a persone che non condividono le loro stesse origini. Lasciamo momentaneamente Chicago e la Chess Records e facciamo un passo indietro. Andiamo a conoscere un altro uomo bianco che a sua volta ha scelto di aiutare gli afroamericani facendo leva sull'innegabile potenza della loro stessa musica. Lui si chiama Johnny Otis. Johnny Otis. I didn't think about that at all. Io non ho mai pensato al fatto di essere bianco o nero, non mi è mai passato per la testa, e per fortuna mio padre la pensava come me. I miei compagni di giochi, allora io nemmeno ci facevo caso, erano quasi tutti afroamericani. Io credevo fossimo tutti uguali, figurarsi. Non credo che fosse così raro comunque che un ragazzino bianco passasse la sua infanzia in mezzo ai coetanei di colore. Credo fosse molto più normale di quel che si pensi. Quelli erano i miei amici, punto. Non è stata la musica ad avvicinarmi a loro, è stata l'amicizia ed il loro stile di vita. Mi facevano sentire accettato, parte di qualcosa. Le caratteristiche della comunità afroamericana sono diventate le mie caratteristiche e non avrei voluto abbandonarle per niente al mondo. Non volevo diventare parte di un'altra comunità fatta di gente che si sentiva superiore alle persone di colore, di gente che predicava la democrazia e praticava il razzismo. Io volevo stare nella black community e basta. La strada di Johnny Otis sembra segnata fin da quando è bambino. I genitori immigrati di origine greca crescono il piccolo Johnny in un sobborgo nero di Berkeley, in California. La comunità afroamericana ruota tutta intorno al piccolo supermercato del padre che sta proprio al piano di sotto di dove abita la famiglia Veliotes. Già, Veliotes. Ioannis Alexandros Veliotes deve ringraziare i compagni di scuola se il suo nome originale ha subito una decisa storpiatura americaneggiante. Sono stati i miei compagni di scuola a prendere per me questa decisione. Decisero semplicemente che non avevano voglia di mettersi lì a pensare come si pronunciasse Veliotes e mi chiamarono semplicemente Otis e poi è rimasto così. Gli anni della sua infanzia sono segnati dal contrasto inevitabile tra i privilegi di chi ha la fortuna di possedere la pelle bianca e le difficoltà di chi invece, purtroppo, deve portare sulle spalle il peso di secoli di schiavitù e il retaggio di pregiudizi immarcescibili. L'uomo nero, per i bianchi degli anni 20 e 30, rappresenta ancora una minaccia oscura e una presenza a malapena tollerabile. Passati ormai più di 50 anni dall'abolizione della schiavitù, gli effetti più evidenti della promulgazione del 13° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America sono davanti agli occhi di tutti sotto forma di segregazione razziale. Attività del tutto normali, come sedersi in un ristorante, bere da una fontana, usare i servizi igienici, frequentare una scuola, andare al cinema o ballare, sono severamente divise e regolamentate in base al colore della pelle. Johnny è ancora un bambino, ma tutto questo non gli va giù. Gli sembra impossibile, inspiegabile, il fatto di non poter dividere i banchi di scuola con gli stessi amichetti con cui gioca tutti i pomeriggi per strada, proprio davanti alla vetrina del negozio di suo padre. Crescendo dentro di sé, prende una decisione definitiva. Se la società gli impone di scegliere tra la compagnia dei bianchi e quella dei neri, lui sceglierà quella di questi ultimi. D'altronde, è quello che ha sempre fatto. Penso un po' se invece avessi vissuto in un quartiere WASP, che cosa mi sarebbe successo? WASP, ovvero White Anglo-Saxon Protestant. Acronimo che serve a definire la società bianca bigotta e schifata dalla presenza dei neri al di fuori dei loro recinti sociali, siano essi piantagioni di cotone o quartieri più o meno malfamati. Forse, se Johnny fosse cresciuto in uno di quei sobborghi lindi, popolati da case candide col prato all'inglese, sarebbe stato lui ad essere considerato un negro. La sua pelle leggermente olivastra, dovuta alle origini mediterranee della sua famiglia, magari sarebbe stata causa di discriminazione da parte dei coetanei d'aspetto più ariano. Per fortuna, invece, essendo cresciuto in mezzo ai ragazzini di colore, quella pelle un po' scura gli torna utile per mimetizzarsi. Quasi nessuno si accorge che lui sia effettivamente bianco. Non c'è niente di particolarmente strano ad essere un nero di colore piuttosto chiaro, diciamo così. Era normale. Se mi sedevo dal lato del ristorante riservato ai neri, nessuno aveva niente da dire. Evidentemente ero lì per una buona ragione, e cioè che quello era il posto che mi apparteneva. È assurdo. Se avessero saputo che in realtà ero bianco, sarebbe successo un casino. Johnny si sente nero dalla testa ai piedi, vive in un quartiere nero, frequenta i locali dei neri e ama la musica nera in maniera viscerale. Inizia a suonare le percussioni in diverse orchestre swing fino a quando, nel 1945, non fonda un gruppo tutto suo, la Johnny Otis Band. Un paio d'anni più tardi apre addirittura un locale, il Barrel House Club, situato nel quartiere rigorosamente nero di Watts, a sud di Los Angeles. La vita di Johnny Otis e della sua band si divide tra il Barrel House Club e gli svariati altri club dove sono spesso chiamati a suonare. Tutti gli elementi della Johnny Otis Band sono stati scelti con cura certosina da Otis in persona, un perfezionista assoluto nel suo mestiere. La sua fama di abile musicista inizia a procedere di pari passo con quella di infallibile talent scout. La mia prima cantante, la prima che ho scoperto, è stata Ernestine Anderson. Era solo una bambina, dopo di lei ci fu Esther Phillips. Dopo il successo straordinario, inaspettato di Esther Phillips, dopo che lei è diventata la piccola stella dell'intera comunità afroamericana, da quel momento in poi, ovunque suonassimo, la gente mi portava i propri figli nel backstage per avere un'audizione. Credo che ormai mi avessero eletto esperto della questione. Ero quello che aveva trasformato due bambine in due star. Ecco com'è iniziata. Stayed out last night, said you were playing cards. Can't understand it, baby, just what makes you play so hard. I'm gonna leave you, and there's no need for you to cry. Se gli afroamericani cercano un riscatto per il loro popolo, a maggior ragione le mamme afroamericane cercano un riscatto per i propri figli. E se Johnny Otis ha la fama di talent scout, è normale che gli tocchi assistere ad episodi di isteria genitoriale in giro per tutto il paese. Venivano da me e dicevano tutti la stessa cosa. Non importa che fossimo in Mississippi o in Massachusetts, dicevano: signor Otis, noi sappiamo che lei ci dirà la verità sul nostro figlio, che ci dirà se ha talento, se ne ha, e se non ne ha, beh, pazienza. Lo dicevano, ma non lo pensavano affatto. Quello che intendevano era: signor Otis, ecco mio figlio, la risposta universale alla domanda collettiva di star da adorare. È proprio lui, non vede? Se per caso mi azzardavo dire che i loro figli non avevano nemmeno un briciolo di talento, mi mettevano le mani addosso. Poi, per fortuna, ho imparato a mentire. In maniere sottili. Eppure, non sempre è necessario mentire. Anzi, a volte si parano davanti agli occhi e alle orecchie di Johnny Otis dei bocconi così ghiotti che è impossibile per lui resistere alla tentazione di assaggiarli. San Francisco, 1953, è una delle tante sere in cui l'ormai celebre e apprezzatissima Johnny Otis Band si esibisce in uno dei locali del Fillmore District, quartiere di riferimento a San Francisco per quel che riguarda la vita notturna. Johnny Otis ha appena finito di suonare quando una ragazza di colore gli si avvicina. Dice di cantare in un gruppo, dice che sono in tre, dice che sono molto brave e che lui deve sentirle a tutti i costi. Niente mamme stavolta, niente genitori che lo implorano con sguardo tra il pietoso e il rabbioso, mascherato da frasi di circostanza. Questa ragazza è venuta direttamente da lui, spavalda, quasi non avesse nulla e al contempo tutto da perdere. La giovane racconta a Otis di avere due amiche più giovani a casa. Una di loro possiede un talento che non potrà certo lasciarlo indifferente. È stato lui a trovarmi. In quel periodo ero andata via di casa e vivevo con le due ragazze che poi sarebbero diventate le Peaches, il gruppo in cui cantavamo tutte e tre. Beh, una sera io e la più giovane delle due eravamo rimaste a casa, avevamo solo 16 anni, mentre quella più grande, che ne aveva 24, era andata ad una festa nel Fillmore District, che era una zona piena di locali. A quella festa suonava proprio la Johnny Otis Band. La voce che avete appena sentito è quella di una delle due amiche rimaste a casa. Le tre ragazze insieme formano un trio, ma due sono ancora minorenni e dunque impossibilitate dalla legge a frequentare i locali notturni. Forse non potranno andare nel Fillmore District ad ascoltare la musica dei loro beniamini, ma come potrebbero farsi sfuggire l'occasione di farsi ascoltare da Johnny Otis? Quella sera, in una piccola stanza di una casa modestissima a San Francisco, due sedicenni già in pigiama ricevono una telefonata del tutto inaspettata. Un'amica, la loro amica, emozionata, trafelata, sta dall'altra parte della cornetta. Da questa parte, seduta sul suo letto ancora incredula, c'è una giovanissima Etta James. Etta James. All of a sudden we got a call that night. D'un tratto abbiamo ricevuto una telefonata. Era la nostra amica che ci diceva: ehi, indovinate un po' con chi sono qui. Sto con Johnny Otis. E noi, Johnny Otis. E lei: sì, gli ho detto che siamo un gruppo e lui vuole farci fare un provino. Al che io ho detto: certo, come no. Ma lei continuava: no, sul serio, vuole che andiamo nel suo hotel e gli facciamo sentire un pezzo. E l'unica cosa che riuscivo a pensare era: certo, come no, abbiamo a malapena 16 anni adesso, come se niente fosse, prendiamo e andiamo da sole in un hotel con la band di Johnny Otis che ha 35 anni. Era non crede alle sue orecchie. Sa che quello che l'amica le sta chiedendo di fare è proibito a una ragazza della sua età. Andare nella camera d'albergo di un 35enne, fosse anche Johnny Otis, fosse anche il presidente in persona. Via, non scherziamo. Non si può fare. L'amica dall'altro capo del filo sta quasi per desistere, ma il fiuto di Johnny Otis prende il sopravvento, con prepotenza. Allora lui le strappò il telefono dalle mani e si mise a parlare con me. Riconobbi la voce, naturalmente. Era tranquillissimo. Mi disse: «Ciao, come va? Ho sentito che avete messo su un gruppo, che avete un paio di pezzi pronti e mi piacerebbe sentirli. Cosa ne dite di prendere un taxi? Lo pago io. Venite qui al mio albergo, vi aspetto all'ingresso. Tranquille, nessuno si approfitterà di voi e nessuno avrà da ridire». Così, in una notte di San Francisco, Era James si veste in fretta e furia e sale sul primo taxi disponibile, diretta verso l'uomo che saprà fare di lei una star. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. I just wanna tell you right now that I believe. Destini incrociati. Destini incrociati a San Francisco e sta seguendo il viaggio di un taxi di due giovanissime cantanti, due dei tre membri del trio vocale chiamato Peaches. Una di loro è la futura celeberrima Era James. Sta correndo verso l'albergo di Johnny Otis, musicista affermato, per fare un provino con lui. Otis, bianco di origini greche, è cresciuto nella comunità afroamericana e si sente parte integrante di essa. Ha scelto di vivere di musica, la stessa musica che ai suoi amici afroamericani scorre nelle vene sin dalla nascita. È proprio grazie ad essa, oltretutto, che Otis sente di poter aiutare molti uomini e donne di colore a emanciparsi dalla loro condizione di emarginazione sociale. Avere la pelle nera nell'America degli anni 50 non è una questione semplice. Aiutare quelle ragazze e dar loro una possibilità gli sembra doveroso. Quindi ci siamo alzate, vestite, abbiamo preso un taxi e poco dopo ci siamo ritrovate di fronte a quest'uomo altissimo. Io avevo visto molte foto di lui coi capelli impomatati e i baffi ed era proprio come me lo immaginavo. Era e le sue amiche, in bilico fra l'impaurito e l'incredulo, salgono nella camera d'albergo di Johnny Otis. Nessuno vuole approfittarsi di loro, anzi il contrario. Otis spera di poter offrire alle ragazze la prospettiva di un futuro migliore e la sicurezza di un contratto discografico. Le Peaches si esibiscono nei loro cavalli di battaglia. Cantano How Deep Is the Ocean, For All We Know, Street of Dreams. Sono decisamente brave. Otis se ne accorge immediatamente. Ma c'è di più. Johnny non può fare a meno di notare che una delle tre possiede un talento straripante, soverchiante rispetto alle altre due. Davanti ai suoi occhi, Johnny Otis ha solo una timida quindicenne in sovrappeso, eppure per le sue orecchie, lei è già la grande Era James. The Mystery Lady, la donna del mistero. È così che James Era Hawkins, la futura Era James, chiama da sempre sua madre. Dorothy Hawkins è una giovane di colore che ha appena 14 anni quando dà alla luce la figlia. È rimasta incinta giovanissima e addirittura di un uomo bianco, si vocifera. Forse è un giocatore di biliardo, un campione, quel celebre Rudolph Wanderon soprannominato Minnesota Fats. Sedotta e abbandonata, la giovane Dorothy non può certo prendersi cura di una figlia. Non le resta dunque che darla in affidamento. È la soluzione migliore per il bene di se stessa e di James Era. Lei era ancora una bambina quando io sono nata. Lei ha fatto quel che era meglio per me. Mi ha messa in una bella casa dove mi sentissi amata. Non hanno mai fatto finta di essere i miei veri genitori. Io sapevo da dove venivo. Sapevo che la mia vera mamma aveva solo 14 anni più di me. Cosa avremmo fatto altrimenti? Sarebbe stato un disastro. Un disastro lo è stato comunque. L'infanzia di Era James non è certo una passeggiata, anzi tutt'altro. Nonostante l'abbia data in affidamento, la madre continua imperterrita a entrare e uscire dalla sua vita e dalla sua casa, ovvero dalla pensione dove stava con la madre e ora continua a vivere insieme ai genitori adottivi, proprietari dello stabile. Quella di Dorothy è una presenza costante e allo stesso tempo discontinua, emotivamente destabilizzante. È una donna bellissima, che ama vestirsi con abiti sgargianti, passa ore a truccarsi e imbellettarsi seducendo schiere di uomini. Dorothy, a dire il vero, da sempre passa molto più tempo fuori casa che dentro. Ecco la donna del mistero, figura evanescente, presenza su cui è impossibile fare affidamento. Solo di una cosa, Era ringrazia la madre, di averle fatto imparare ad amare la musica. You know, but I always loved Billie Holiday. Mi è sempre piaciuta Billie Holiday. Io ero bambina e mia madre è sempre stata un amante del jazz. Me lo faceva ascoltare continuamente. L'amore per il jazz, potente e insieme struggente, segna profondamente l'infanzia della futura Era James. La voce e la figura di Billie Holiday, così soffice e tormentata, ricorderà tragicamente da vicino le future debolezze della nostra protagonista. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner, in a corner, I don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about eight, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. La piccola James Era, grazie anche alla passione materna per il jazz e il blues, diventa grande letteralmente a suon di musica. A 5 anni hanno cominciato a mandarmi a lezione di canto. Dai 5 ai 12 anni ho cantato i gospel in chiesa. A 5 anni la piccola James Era è già una celebrità nel suo quartiere. Proprio come è già successo e in futuro succederà a moltissime altre star del rhythm and blues, la prima platea ad accorgersi del suo talento smisurato è quella che sta seduta sulle panche di legno di una chiesa e più precisamente su quelle della St. Paul the Baptist Church di Los Angeles, dotata di uno dei cori gospel più apprezzati dell'intera città. Il coro degli Echoes of Eden. Ogni domenica la chiesa si riempie fino a scoppiare, un po' per le acrobazie vocali del coro, un po' per le prediche coreografiche infiammate del reverendo Branham. La madre adottiva, Mama Lou, domenica dopo domenica, inizia a cogliere l'interesse quasi morboso della piccola nei confronti di quel coro così affiatato. La sente canticchiare, imitando quei suoni che ascolta con attenzione maniacale. È così che nasce la sua passione viscerale per il canto. E se all'inizio il suo talento avrà modo di diffondersi esclusivamente tra le pareti delle chiese, non dovrà passare molto tempo perché la voce di James Era si diletti di questioni più profane. So that's at San Francisco. Oh, I was listening to little stuff. A me non interessava la musica che si sentiva, che si suonava al di fuori della chiesa. Ma poi, una volta arrivata a San Francisco, è cambiato tutto. Sono diventata una peste, sembravo scappata di casa, invece, semplicemente, vivevo con la mia vera mamma. E come sappiamo, la vera mamma di James Era, Dorothy, detta The Mystery Lady, non ama certo stare in casa col grembiule a sfornare biscotti. Preferisce la vita notturna, i locali, il jazz e gli uomini che riescano a farla sentire un po' meno sola, anche solo per qualche ora. Non stupisce che la futura Era James ben presto si intrufoli di nascosto in quegli stessi club dove tutto odora di whisky e, sbirciando attraverso la pesante cortina di fumo, assiste alle acrobazie canore di signorine in abiti eleganti, lunghi fino ai piedi. Le ammira, le invidia. Anche lei vuole calcare un giorno quei palcoscenici. L'occasione ghiottissima di farlo le si presenta quando ha appena 15 anni e l'uomo che deve ringraziare è Johnny Otis. James Era e le sue amiche hanno intercettato Johnny Otis, affermato musicista blues, in un locale di San Francisco. Lui ha consentito a far loro un provino. Il suo fiuto gli dice che queste ragazze ci sanno fare. Non ha nessuna intenzione di lasciarsele scappare. E poi siamo salite nella sua stanza e ci ha fatto cantare. Una delle tre amiche in particolare, la più grassottella, quella con l'aria scontrosa di chi maschera la timidezza con il broncio, dimostra di avere un talento fuori dal comune. E pensare che metà del provino lo fa cantando in bagno, con la porta aperta ma nascosta e lontana dallo sguardo indagatore di Otis. James Era è timida e si vergogna, ma Otis la rassicura. La sua voce è un dono prezioso e lui farà di tutto per valorizzarla. Otis pensa immediatamente di portarla con sé a Los Angeles e farle incidere un disco, anche se legalmente non sarebbe possibile. La ragazza è minorenne. Beh, io non avrei potuto, in teoria. Sapevo che mia madre non mi avrebbe mai lasciato fare quel che invece avevo tutta l'intenzione di fare. Johnny Otis mi chiese quanti anni avevo ed io mentii spudoratamente. 18, gli dissi. Sapevo che lui sapeva che si trattava di una bugia, ma mi disse lo stesso: «Bene, io vorrei portarti a Los Angeles per incidere un disco. Posso parlare con tua madre?» «No, mia madre non può parlare con lei, signor Otis, sta lavorando». E allora disse: «Beh, potresti andare a casa e farti dare un permesso scritto da lei e portarmelo». «Certo che posso». Così sono andata a casa, ho scritto il permesso con le mie mani, ho falsificato la firma di mia mamma, ho preso un po' di vestiti e sono salita sul bus di Johnny Otis, diretta verso Los Angeles. James Era Hawkins sale sul bus del suo nuovo mentore e pigmalione Johnny Otis, diretta verso una nuova vita e una nuova sfavillante carriera nel mondo della musica. Destini incrociati. Destini incrociati non è più a bordo di un taxi a San Francisco, ma su un pullman diretto a Los Angeles insieme a James Era Hawkins e Johnny Otis, l'uomo che ha appena scoperto il suo colossale talento vocale. Otis decide che James Era è un nome dallo scarso appeal e suggerisce alla ragazza di modificarlo. È così, da una semplice operazione di taglia e cuci verbale, che nasce Era James. Johnny Otis lancia la carriera di Era James facendole pubblicare diversi singoli per poi affidarla alle cure di Leonard Chess, giovane discografico di Chicago bisognoso di un talento femminile per rimpinguare la sua cerchia di artisti in cui militano già nomi come Muddy Waters, Chuck Berry, tanto per citarne un paio. Era, dalla sua, non solo ha una voce strepitosa, ma un temperamento focoso e un piglio spesso talmente scostante da risultare persino affascinante. Accantonata la timidezza degli inizi, Era è pronta per scioccare con le sue doti il mondo della musica, a partire dalla scelta di un'audace tinta per capelli. Ero giovane, carina, molto alta anche se un po' in carne, e c'era questa cantante, Joyce Bryant, che io ammiravo molto. Si metteva sempre vestiti da sera ed era nera come me, e aveva il fegato di tingersi i capelli di biondo platino. E poi c'era Jane Mansfield, sempre con quella chioma platinata. Ho cercato di fare una fusione tra queste due figure. Era James, ventenne di colore con la chioma di platino, disorienta e conquista le platee di tutta l'America. Con la sua splendida voce negli anni 60, inanella un successo dietro l'altro. At Last, All I Could Do Was Cry e Something's Got a Hold on Me sono solo alcuni dei titoli delle canzoni che la rendono celebre e venerata dal pubblico e dalla critica. Dal punto di vista professionale, Era è riuscita a eguagliare, se non addirittura superare, la fama delle grandi cantanti cui si è sempre ispirata. Una su tutte, la straordinaria Billie Holiday. Dinah Washington, Billie Holiday, queste due donne straordinarie è come se le conoscessi personalmente. Loro sono state come un faro, loro sono la luce che io inseguo cantando. Purtroppo il paragone con la Holiday non è valido solo sul fronte professionale, ma anche su quello di una cupa, viscosa, lacerante vicenda personale. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. So weary all of the time. Era James, proprio come accade al suo idolo Billie Holiday, inizia a fare uso massiccio di droghe. La difficoltà di un'infanzia segnata dalla totale assenza di un padre e dalla figura controversa di una madre bambina, incapace di prendersi cura di lei, si ripercuotono inevitabilmente sull'età adulta. La James entra ed esce dagli ospedali, dove nel corso degli anni 70 finisce col passare la maggior parte del suo tempo. Fuori, tuttavia, il mondo della musica aspetta con ansia il suo ritorno. Durante la riabilitazione, a metà degli anni 70, mi arrivò una lettera di Keith Richards, che diceva che i Rolling Stones volevano proprio me. Avevano suonato con Tina Turner, con B.B. King e con altri mostri sacri, ma quella volta volevano proprio me. Volevano che li seguissi nel loro tour. Io non ci andai allora. La mia riabilitazione non era ancora finita, non potevo rischiare. Ma loro mi aspettarono e nel 1978 andai con loro in tour finalmente. Il grande ritorno di Era James sulle scene è coronato da nuovi album di successo e dall'ingresso nel 1993 nella Rock and Roll Hall of Fame. L'anno seguente sarà la volta di Johnny Otis. Anche lui è entrato formalmente nella schiera dei musicisti più influenti del pianeta. Il Godfather of Rhythm and Blues viene premiato proprio in virtù della sua abilità di talent scout e produttore, abilità che ha regalato al mondo il talento della poliedrica Era James. Andavamo ai Grammy, eravamo nella categoria jazz. Insomma, andavo ai Grammy in nome del blues e avevo una nomination nella categoria miglior performance vocale jazz. Ero un po' confusa. Sono una cantante jazz? Sono una cantante blues? Ma chi se ne frega di come diavolo mi incasellano finché continuano ad incasellarmi da qualche parte? Non solo il mondo della musica continua volentieri a incasellarla, ci si mette anche quello del cinema. Nel 2008 è la splendida e talentuosa Beyoncé a vestire i suoi panni nel film Cadillac Records. La nuova regina della musica nera offre così il suo omaggio all'intramontabile era, reinterpretando alcuni dei suoi più grandi successi. Tra gli inevitabili alti e bassi, umani e professionali, le carriere di Era James e Johnny Otis hanno brillato nel firmamento musicale per oltre 50 anni e si sono spente entrambe nel gennaio 2012, quella di Otis il 17 e quella della James solo 3 giorni più tardi, il 20. Un uomo bianco e una donna nera, uniti nella vita e nella morte, dall'irresistibile richiamo del blues. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, Etta, tu hai veramente vissuto come fossi su un ottovolante. In effetti è proprio così che è andata. Ma se io non fossi stata sull'ottovolante, come avrei potuto essere in grado di cantare certe cose, di sentire davvero quello che stavo cantando, di sentire le canzoni altrui e scoppiare in lacrime d'improvviso? E invece tutto questo è possibile proprio perché io per prima sono in grado di capirlo. E vuoi sapere una cosa? Se dovessi rivivere la mia vita da capo, io sull'ottovolante ci tornerei e come?